Cinema Massimo. La storia del cinema con Massimo Pica. Bentornati amici, benvenuti alla quinta puntata di Cinema Massimo su Radio Abawalla. Mi chiamo Massimo Pica, sono il vostro conduttore, speaker per questo viaggio nel cinema che coinvolgerà tanti registi, tanti film. Siamo sempre negli studi di Libera, siamo in via Arduino, siamo io e Marco in questa stanza buia e stiamo parlando di Woody Allen, il primo autore, regista, attore scelto per questa rubrica. Prima di cominciare a parlare di Woody, vi ricordo che tutti i sottofondi, tutte le musiche, tutto quello che ascoltate, a parte la mia voce, è in Creative Commons. Tutto Radio Abawalla sceglie la musica libera, libera per tutti. Ok. Veniamo su Woody, siamo arrivati al 1986, chi ha seguito le puntate precedenti ha apprezzato alcuni film che ho raccontato, ma qui arriviamo veramente a quello che possiamo considerare il top della carriera di Allen, che è Anna e le sue sorelle. Il film è del 1986, Anna and Her Sister, è un film che racchiude tutto il cinema di Woody Allen. Il dramma, la comicità, l'allegria, gli intrecci amorosi, la psicologia, tutto quello che sono le caratteristiche del suo film. Ed è un film che sarà anche premiato al botteghino, perché è non voglio dire una fesseria, ma credo che sia il suo più grande successo commerciale. Siamo sui 40 milioni di dollari, cifre che per lui sono veramente fuori da ogni orbita. Comunque il film Anna e le sue sorelle è un film che si basa sulla figura di Anna, che è interpretata da Mia Farrow, e da due sorelle con cui ha un rapporto molto molto intenso. Una delle due sorelle è Diane West, di cui ho parlato in precedenza, è una grande scoperta di Woody Allen, una grande attrice che sempre in ruoli da non protagonista, ma molto molto presente in questi film e nei film futuri, tant'è che questo film la porterà addirittura a vincere un Oscar come non protagonista, insieme all'altro attore maschile, che è Michael Caine, che vincerà anche lui un Oscar per la sua interpretazione. La chiave comica del film invece gira tutta intorno ovviamente a Woody Allen, che interpreta l'ex marito di Anna, quindi l'ex marito di Mia Farrow. Fa molto ridere perché lui è un ipocondriaco, è un produttore televisivo, spaventato dalle malattie, con paure di tutti i tipi, viaggia da un medico all'altro, paura di avere un tumore, in realtà si tratta di normali problemi medici, ma lui veramente è l'elemento comico del film ed è l'elemento su cui possiamo farci veramente quattro risate con battute veramente veramente eccezionali. Il discorso è che lui interpreta in questo caso non proprio il protagonista, è una parte secondaria, quella di Woody. La storia ruota intorno alle tre sorelle e a breve vi racconterò come si snoda la loro storia, che si intreccia tra tradimenti, mezze bugie e brutte storie. Insomma, ci sentiamo dopo con Anna e le sue sorelle, con Massimo. A dopo, grazie. E allora, dedicato proprio ad Anna, Daisy May con Jamie's Song. Thank you. just happy it is time to come home. He's been in action for a while, it was way too long. After well debated country paid a trip away, Jamie is on a plane and we can all wish Jamie a nice day. Bentornati amici, siamo ancora qui con Cinema Massimo, sono Massimo Pica, siamo su Radio Abawalla, abbiamo appena ascoltato un pezzo in Creative Commons e stiamo parlando di Anne e le sue sorelle, un film del 1986 di Woody Allen. È un film che abbiamo detto in intrecci amorosi, le tre sorelle, Anna e le altre due, che hanno ognuna i suoi problemi, i loro problemi psichici, perché Anna è ex moglie di Woody Allen nel film, risposata con Michael Caine, che è innamorato di una delle sue due sorelle. È innamorato, questa sorella a sua volta convive con un pittore, Max von Sydow, anche qui una bella interpretazione, un pittore, una persona strana, un artista, una mente isolata, che alla fine tradirà sia Max von Sydow che la sorella Anna Mia Farrow con Michael Caine, una storia che durerà qualche mese ma che poi non porterà a nulla, tant'è che lui, Michael Caine, si convincerà alla fine di essere in fondo innamorato di Anna. Invece la terza sorella, Diane West, attrice che mi piace parecchio, che per questa interpretazione vincerà l'Oscar come attrice non protagonista, interpreta una cocainomane, ex cocainomane, che è in cerca dell'anima gemella, con dubbi, incertezze, paura del tempo che passa e tutte queste cose che tipiche un po' dell'universo femminile rappresentato da Allen. Amica fraterna di Diane West nel film è Carrie Fisher, un'altra attrice che gli appassionati di cinema ricordano soprattutto e credo solo per l'interpretazione della principessa Leila in Star Wars, anche in Blues Brothers faceva la fidanzata di John Belushi, per chi se lo ricorda, veramente spassoso. Comunque il film analizza e vive su questo intreccio di queste tre sorelle e viaggia tra due feste del ringraziamento. La prima festa in cui tutto sembra andare a rotoli, i matrimoni vanno in pezzi, le relazioni non funzionano, Woody, l'ipocondriaco, sembra addirittura avere un tumore al cervello. Poi passa un anno, la successiva festa del ringraziamento, tutto sembra a posto, Diane West si sposa con Woody, l'ex di Anna, Mia Farrow nel film, e addirittura si scopre che poi loro aspettano un figlio. E a inizio del film addirittura si pensava, era stato detto che Woody era sterile. E questo ci fa pensare. Ci sentiamo dopo, amici. Ora in onda Emerald Park con Reality Bites. Bentornati amici, siamo ancora con Radio Bawalla, stiamo parlando di Anna e le sue sorelle. Scusate se mi prolungo, ma è un film che merita assolutamente di essere trattato in tutto il suo splendore. È un film che, abbiamo detto, ha portato l'Oscar come attore non protagonista a Michael Caine, come attrice non protagonista a Diane West, ma che farà vincere anche un Oscar a Woody Allen per la sceneggiatura originale, e direi che se la meritava è come. È un film che, abbiamo detto, raccoglie tutte le paure, le fobie tipiche dei film di Allen, soprattutto nel personaggio proprio suo, di questo ipocondriaco che, superata la paura del tumore, che alla fine era un falso allarme, comincia tutta una serie molto comica in cui lui fa delle prove di religione, cioè prova a entrare in vari tipi di religione, passa al cattolicesimo, vuole addirittura fare l'Hare Krishna, insomma fa varie prove religiose perché cerca se stesso, cerca di trovare una risposta. Grandi pensatori, come lui dice, dicono che c'è addirittura che pensa che la vita verrà rivissuta sempre, sempre, sempre uguale. Lui dirà, a me toccherà di nuovo rivedere Holiday on Ice, la sua più grande paura per quello che riguarda la sua vita futura. ma il film si sviluppa e porta a lieto fine, perché alla fine, in questo finale, tutte le tre sorelle sono sistemate, tutte le tre sorelle trovano la loro armonia, pur essendosi nascoste molte cose, i tradimenti, le bugie, il fatto di aver perso occasioni artistiche e non, le portano, ma alla fine tutto si aggiusta, le tre sorelle vivono una loro nuova vita, si ritrovano unite più che mai, nascondendo però quello che è successo, che non diranno mai a nessuno. Il film, abbiamo detto, è il più grande successo commerciale di Woody Allen, oltre 40 milioni, e gli varrà un nuovo contratto con la Orion per nuovi film, e i nuovi film saranno film, anche secondo me, ancora bellissimi, perché il prossimo film di Woody Allen si chiamerà Radio Days 1987, ne parliamo dopo. Ed ora una cascata di note al piano con Mate and Ellen. Are closed now, and I'm freezing in place. You're not watching, I'm cheapening myself. Wouldn't go there where I spent my bedlam days. You never went there. Don't explain, because I'm leaving soon. Chances were in our favor. When you really don't mean it, you'll be saying it again. And then you will shoot for trouble all over LM. First you kiss me, then you push me away. I'd love to take time, you are stuck in delays. You wouldn't go there where I spent my bedlam days. Now you're sorry, but I whisper it's too late, because I'm leaving soon. Chances were in our favor. When you really don't mean it, you'll be saying it again. And then you will shoot for trouble all over LM. Siamo sempre su Radio Abba Walla, sono sempre Massimo Pica negli studi di Libera in via Arduino. Siamo nella quarta parte della puntata dedicata agli anni 80 di Woody Allen. Abbiamo appena finito di parlare di Anna e le sue sorelle, uno dei suoi più film più belli. E ora parliamo di un film del 1987, si chiama Radio Days. È un film dove Woody in realtà non compare come attore, ma compare con la voce, e la sua presenza è rappresentata da un bambino, cioè un bambino con i capelli rossi e gli occhiali, che rappresenta Woody da piccolo. Il film inizia le riprese nel 1985 ed è un film particolare perché una troupe francese seguirà Woody durante le riprese, quindi ci sono molti aneddoti e molte situazioni che ci fanno vedere Woody durante il film, come recitava, cioè come dirigeva in questo caso, perché lui non recitava in questo film specifico. Si tratta di un film che ruota tutto intorno agli anni d'oro della radio, quindi stiamo parlando del periodo in cui Allen rappresenta se stesso piccolo e in cui racconta la sua infanzia legata alle voci che uscivano dalla radio, a questi personaggi immaginati, a queste canzoncine popolari, ai quiz radiofonici. Cioè, infatti c'è la prima scena molto divertente in cui due ladri entrano in una casa e squilla il telefono ed era un quiz radiofonico e i ladri vincono, rispondono alle domande e alla fine il giorno dopo i padroni di casa si troveranno recapitati dei premi che non sanno nemmeno loro il motivo. Questo film è molto divertente, molto molto piacevole per le location, per la ricostruzione del periodo. Stiamo parlando del periodo della seconda guerra mondiale. Infatti in una scena una diretta radio verrà interrotta con l'annuncio del bombardamento di Pearl Harbor, quindi stiamo parlando degli anni 40 in America, ed è un film anche molto molto particolare perché è l'unico film in cui compaiono tutte e due le due principali attrici del cinema di Woody Allen. C'è Mia Farrow, che interpreta una cameriera, e c'è Diane Keaton, di cui abbiamo parlato nelle prime puntate, che interpreta una cantante. È l'unico film in cui le due attrici sono presenti contemporaneamente. È un film molto ambizioso, personalmente una perla, una chicca che vi consiglio, è da amare, è un film da amare ed è un film molto molto poetico, ma anche molto malinconico, che fa quasi ci commuove quasi, perché ci fa pensare al tempo passato, a quando eravamo piccoli, a queste cose molto molto malinconiche di cui Woody ogni tanto ci offre qualche chicca. Ci sentiamo dopo per la chiusura della prossima puntata. Parleremo di Settembre, un film del 1987, vi lascio con un pezzo in Creative Commons. A dopo. Qui su Radio Bawalla, Daisy May ancora con Double Blues. Mark Murkowski was known as Double M. When he left college and joined the family business, that was a time of fun, that was a time of fame. He often used to call it the time of Double M. Penelope Pacman could have been called Double P, but most of her friends used to call her Penny. She's now double the size she was when she left uni, with a double chin, a fat bottom and a bad knee. Last year at Easter, upstairs on a double decker, with no double meaning, they eyed at each other. They spoke double dead and 1 hour later, he asked her on a date for dancing and some dinner. Thank you. asked him in for double scotch. Went back at her place. He took that for him and felt pleased with himself. They had a double fuck, she got all she could get. They ended up having twins. Well, what do you expect? Bentornati amici, benvenuti, sono Massimo Pica, siamo negli studi di Libera, dove si registrano le trasmissioni di Radio Abawala, la web radio che sta nascendo in questo periodo. Siamo a Ivrea, la prima radio libera di Ivrea. I pezzi che sentite, la musica, ve lo ripeto per l'ennesima volta perché è importante, sono in Creative Commons, quindi musica libera per tutti. Ringrazio ancora Marco che mi ascolta. Siamo di notte, saranno le 3-4 di notte, non lo so, andiamo avanti all'infinito qui e non ci fermiamo mai. Spero che ci ascolterete a qualsiasi ora, in podcast o in diretta, non lo so. Adesso stiamo parlando di Woody Allen, siamo arrivati al 1987, dopo Radio Days, un film gradevolissimo, arriva un film non altrettanto gradevole, a mio modesto parere, si chiama Settembre. È un film del 1987, un film in cui Woody non recita, è solo regista, ed è un film veramente, veramente difficile da seguire, un film molto, molto psicologico, molto serioso, molto complicato. È un film che si svolge in due giorni, gli ultimi due giorni dell'estate del 1987, ed viene girato totalmente in interni, quindi due giorni girati all'interno di una casa. Pensate che il film è stato talmente turbolento, talmente travagliato, che il film è stato girato addirittura due volte. Il film è stato girato una volta da Allen, non è stato soddisfatto del risultato, ha rigirato il film con un altro cast, pretendendo nuovi attori per questo film. Personalmente non ve lo consiglio, cioè è un film molto molto difficile da seguire, non è un film che rimane indimenticato nella memoria, è un film molto molto triste, però non importa, noi adesso analizziamo tutto il suo cinema, cerchiamo di essere obiettivi e di dare pareri personali per tutto quello che può essere la cinematografia, poi ognuno è liberissimo di pensarla a modo suo e vedere e rivedere tutti i film che vuole. La prossima puntata inizieremo ad analizzare un altro film molto molto serio che si chiama Un'altra donna, del film dell'88, per poi arrivare a film un po' più leggeri, un po' più gradevoli, dove torna lo spirito di Woody Allen, la commedia, l'ironia e la comicità. Vi ringrazio, sono Massimo Pica, qui è Cinema Massimo, la rubrica del cinema di Radio Abawala, siamo a Ivrea e vi do appuntamento alla prossima puntata per la filmografia di Woody Allen. Avete sentito? Cinema Massimo con Massimo Pica.